1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti in punto qui a Radio 24 ed è venerdì. Venerdì. Sentite con che entusiasmo uno mi ha scritto: ma io lavoro anche sabato, mannaggia. Vabbè, capita, per me è venerdì e quindi non lavoro il sabato e neanche la domenica. Comunque si chiude, come sapete, la 90esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Non sono state decisive, ma guardate che la prossima veramente ci siamo, per la legge elettorale. Forse, ottimismo. Intanto noi parleremo di questo allarme terrorismo lanciato dal ministro degli esteri Gentiloni, a dire attenzione, c'è anche il rischio che con l'immigrazione ci possono essere delle persone che arrivano con diverse intenzioni da quelle di essere semplici migranti. Apriti cielo, la Lega dice: ecco, vedete, avevamo ragione noi, dovevamo sospendere tutto. Gentiloni poi precisa: no, non confondiamo terrorismo e immigrazione, da idioti confondere le due cose. Certo, c'è attenzione, allerta, ma non bisogna confondere i due fenomeni. Ne parleremo. Comunque avremo Massimo Bitonci, sindaco di Padova della Lega, avremo Khalid Shaukhi, onorevole del PD, responsabile di immigrazione del partito, avremo anche l'avvocato di quel ragazzo pakistano di 26 anni espulso dall'Italia perché inneggiava al jihad su internet, questa è almeno la motivazione. Questo dalle 8:15, ora i giornali. Siamo qui allora in questo venerdì 23 gennaio a leggere i titoli, a cominciare dal Sole 24 Ore. BCE oltre le attese, 1140 miliardi sul quantitative easing, e questo è la scelta anche per altri quotidiani come il Corriere della Sera. 1000 miliardi la scossa di Draghi all'Europa. Repubblica: all'Europa 60 miliardi al mese. Poi Draghi dalla scossa all'Europa, così il Secolo XIX, il Messaggero: BCE cura shock da 1000 miliardi, la Stampa: scossa da oltre 1000 miliardi. Per il Manifesto è Dragon Ball la foto di Draghi, mentre Avvenire: la BCE fa il pieno dei titoli di Stato. Le aperture un po' diverse sono del Giornale: PD di spie e traditori, non solo parassiti ma anche spie e traditori, così il Giornale attacca il PD. Mentre il Fatto Quotidiano: il Nazareno ingrassa Berlusconi, 500 milioni in 15 giorni, questo è il guadagno di Mediaset come titolo in borsa. Libero invece: paghiamo Sky ai clandestini, al centro di raccolta protestano perché non possono vedere la Coppa d'Africa in TV, subito accontentati, mettono la parabola. Allora, da cosa voglio partire? Però da altre notizie, come al solito. Intanto l'INPS, sapete che sotto Natale Renzi ha nominato Tito Boeri, economista, docente, a capo dell'INPS. C'è un piccolo problema, almeno questo ha fatto notare il relatore di maggioranza Sergio Pizzolante del gruppo Area Popolare alla Camera in Commissione Lavoro. Boeri, secondo l'onorevole Pizzolante, non ha i titoli, non ha i requisiti per guidare l'INPS. Questo è il titolo di pagina 15 del Corriere della Sera. Saranno schermaglie, però certo, Pizzolante dice: non ha una specifica capacità manageriale e una qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente, requisiti richiesti dal decreto legge del 94 che disciplina la nomina del presidente dell'INPS. E da qui nasce la discussione. Scrive tra l'altro Enrico Marro sul Corriere della Sera che a sorpresa fu scelto Boeri, tanto che lo stesso Poletti, ministro del lavoro, non seppe nulla fino all'ultimo della decisione del presidente del Consiglio. Sapete che era stato messo come commissario straordinario Tiziano Treu, giuslavorista, più volte ministro, ex parlamentare PD, commissario che tutti pensavano sarebbe stato riconfermato poi a presidente dell'INPS. E invece la scelta di Boeri ha messo in forse, scrive il Corriere, anche il rinnovo del mandato del direttore generale Mauro Nori, che era dato per scontato sotto Treu. Insomma, racconta il Corriere, forse queste schermaglie anche di definire Boeri non all'altezza dell'INPS è frutto di una nomina che il Premier, conclude l'articolo Enrico Marro, avrebbe potuto preparare meglio, forse una nomina un po' pasticciata. Staremo a vedere se supera, Boeri le problematiche che sono state evidenziate e se sarà nominato presidente, confermato presidente dell'INPS. Beh, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, invece c'è questa storia abbastanza incredibile che proviene da Catania, che ora ritorna in prima pagina sui giornali per la vicenda di questo ragazzo al quale fu ritirata la patente perché gli fu diagnosticato un disturbo dell'identità sessuale, semplicemente perché aveva detto di essere gay. Gli ritirarono la patente, stato omofobo. Maria Elena Vincenzi su Repubblica, pagina 25, torna a raccontare la vicenda di Danilo Giuffrida, che oggi ha 34 anni, ma quando ne aveva 20, vide la sua patente ritirata perché a militare aveva dichiarato di essere gay. E allora gli arrivò una cartella a casa con tanto di sindrome da disturbo dell'identità sessuale, per cui gli veniva consigliato di ripresentarsi alla motorizzazione civile per accertare se avesse i requisiti psicofisici per guidare. Gli fu ritirata la patente in quanto omosessuale, ma vi rendete conto? E ora lui ha fatto causa, prima gli hanno dato 20.000 euro, ma il suo avvocato ha fatto ricorso e la Cassazione ha stabilito che ora bisognerà riquantificare al rialzo il danno che gli è stato, il risarcimento che gli è stato riconosciuto, riconoscendo per lui una grave violazione che aveva suscitato nel giovane un sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato. Vabbè, adesso qui ovviamente per soldi si fa tutto, e vabbè, comunque otterrà un risarcimento ben più alto. Oh, molto spesso dite, ma non ci sono buone notizie dai giornali, e invece oggi Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera racconta una di quelle belle storie che vanno citate e che sono assolutamente meritevoli di essere diffuse. È la storia di un medico vicentino che ha inventato una macchina per salvare i bambini, una macchina per fare la dialisi per neonati. Si chiama Claudio Ronco, ha inventato questa macchina che si chiama Carpe Diem, in linguaggio scientifico è l'acronimo di Cardio Renal Pediatric Dialysis Emergency Machine, ma insomma capite che come Carpe Diem ci siamo capiti tutti. Il Carpe Diem di Orazio è molto più efficace, no? Ebbene, Gian Antonio Stella racconta pagina 24. Lisa, la storia di Lisa, bambina nata due volte. La prima volta alla fine agosto 2013, con un parto complicato, una gravissima insufficienza renale così grave che pareva irrimediabilmente perduta, visto che il 90% di piccoli nati con quei problemi non ce la fanno. Come allora si poteva salvare se non esistevano neanche macchinari per la dialisi dove tutto fosse in miniatura? E tra l'altro le multinazionali non erano interessate a metterci soldi per costruirli. È arrivato questo medico, Claudio Ronco, ha diretto il laboratorio del Beth Israel Medical Center a New York, ha pubblicato lavori sulle più importanti riviste scientifiche del pianeta. Nel 2014, primo posto nella classifica dei più importanti scienziati del rene stilata dalla Johns Hopkins University. È arrivato in Italia e all'ospedale San Bortolo di Vicenza ed è riuscito a coniugare la struttura, l'assistenza, la didattica, la ricerca e ha creato questa macchina per la dialisi in miniatura, diciamo così, e quindi per curare i neonati. E ce l'ha fatta. E dove Ronco abbia preso i primi rudimenti tecnologici lo spiega lui stesso in questo articolo di Gian Antonio Stella. Ha fatto di tutto, ha iniziato riparando antenne da ragazzo e poi ha fatto il gelataio, il falegname, l'imbianchino, il riparatore di radio a galena, il meccanico di biciclette, il cacciatore di frodo, non era proprio un lavoro ma aveva i suoi segreti, il bottonaio, il recuperante di reperti bellici, il raccoglitore di muschio per presepi. Un miscuglio di interessi che gli sarebbe tornato utile per capire quanto le divisioni in compartimenti stagni tra medici, ingegneri, sistemisti, programmatori non abbiano alcun senso. Il finale di questa storia già incredibile è ancora più bello, perché Carpe Diem, spiega Ronco, questa macchina non è stata brevettata e l'ho fatto per una scelta precisa, non l'abbiamo costruita per fare soldi, c'è solo un impegno preso insieme con le aziende Medica e Belco di Mirandola nell'area modenese che lo producono. Ogni 10 macchinari venduti, uno deve essere donato a un ospedale pubblico. Beh, insomma, poi dite che non ci sono belle notizie. Questa che trovate sul Corriere della Sera, raccontata da Gian Antonio Stella, a mio modo di vedere, lo è. E come? E vabbè, e adesso per contrappasso vi beccate le mani sul volante. L'articolo che mi fa pensare della giornata, si potrebbe dire mani sul timone, avete sentito anche la nostra Raffaella Calandra. Il PM Leo Pizzi nella requisitoria nei confronti di Schettino ha parlato di decisioni testicolari dell'imputato, testicolari, vi rendete conto? Decisioni testicolari, l'ultima. Eccolo qui l'articolo di Cristina Rufini sul Quotidiano Nazionale. Il radar Schettino non ci vede bene. Non ci vede bene. Cioè, praticamente l'ho capita io così. Navigava a vista, peccato che era miope. Ma porca... Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. Alessandro Milan, il Rais dell'informazione. Eccolo lì. Allora, cari italiani, vabbè, si chiude, come detto, la 90esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Si apre la 91esima, la prossima settimana, quella per eleggere il Presidente della Repubblica. Sui giornali, ovviamente, c'è tante paginate. I lettori di giornali sentitamente ringraziano su ma chi era capo dei 101 che... impallinarono Prodi 2 anni fa. Vabbè, secondo Fassina è Renzi. Non è tanto cercare di capire cosa è successo 1 anno e mezzo fa, chi se ne frega, tanto il passato è passato, già era poco interessante all'epoca per gli italiani, per la massa. Io dico sempre, se non siete interessati a queste cose non vi preoccupate, che sono problemi loro, non sono questioni vostre, cioè del 99,9% della popolazione normale. Però già non era interessante capirlo allora, approfondirlo allora, ma adesso la cosa interessante non è tanto capire chi era a capo, tanto non si saprà mai, di quella congiura di 101 franchi tiratori che impallinarono Prodi. La cosa interessante è che Fassina, con questa accusa, frontalmente attacca Renzi e si apre sempre più questa idea di frattura all'interno del PD. Ecco allora che Renzi, come racconta Goffredo De Marchis a pagina 10 di Repubblica, vuole sminare il campo del PD, e cioè il nome del Quirinale lo voglio e lo devo concordare con la minoranza, dice ai suoi. Per me il metodo non cambia anche dopo lo scontro con l'Italicum. Ecco allora che Renzi ha già fissato in agenda prossimamente un nuovo incontro con Bersani. L'idea appunto è quella, guardare al capo del Quirinale con un nome concordato, decidiamo insieme tutto. Dall'altra parte c'è Berlusconi, quindi da una parte si parla del rischio sempre scissione all'interno del PD, con il dissidente Mineo che dice non siamo in 140, saremo un centinaio. Dall'altra parte Renzi, che vuole invece ricompattare il PD in vista del nome da scegliere per il Quirinale. La contromossa invece di Berlusconi, sempre su Repubblica, Carmelo Lopapa, pagina 12, ecco qui lo scenario che si ipotizzava e si diceva già ieri, no? Questi articoli che raccontano quello che potrebbe succedere. C'è un Berlusconi che può andare a governare con Renzi. Beh, ufficialmente Forza Italia dice, e anche un'intervista di Giovanni Toti su Repubblica, noi siamo opposizione a questo governo. Però il retroscena di Carmelo Lopapa è questo: crisi pilotata e ingresso al governo, oppure tentare di far saltare tutto e andare al voto con il consultellum, dunque non fare approvare neanche la legge elettorale. Queste sono le due strade per una resurrezione politica fino a una settimana fa insperata, che ora invece Berlusconi sogna davvero o finge di sognare. Per questo Berlusconi dice: Fitto e i suoi non capiscono nulla, le condizioni sono cambiate, siamo tornati determinanti. E allora vedrete che la sinistra PD romperà dopo il 29 e Renzi non sarà più in condizioni di governare. Gli serviranno i nostri voti per andare avanti, ma dovrà passare attraverso una crisi pilotata e solo allora potrebbe esserci un nostro ingresso in un governo del Nazareno. Questo avrebbe detto Berlusconi in riunione ai suoi, dunque grandi manovre. Nel PD invece, come detto, negano assolutamente la scissione, ma Libero scrive: attenzione, c'è addirittura già il logo registrato dall'onorevole Giacomo Portas. Questo lo scrive Elisa Calessi in prima pagina di Libero. Bersani ha già il simbolo per la scissione. L'idea è tutta sua, giura che non c'è dietro lo zampino di Bersani, anche se lui è grande amico di Bersani. L'onorevole Portas ha depositato questo marchio. Un altro centrosinistra, Italia Bene Comune. Secondo Libero è il nome di un nuovo partito, Italia Bene Comune, ed è presumibilmente il possibile nuovo simbolo dopo la scissione della minoranza del PD dal partito stesso. Ma staremo a vedere. Intanto il Fatto Quotidiano si concentra su cosa? Sui conti, sui numeri, sui soldi. In prima pagina il titolo del Fatto Quotidiano è questo: Berlusconi ha guadagnato gli ultimi 15 giorni, o meglio Mediaset quotata in borsa, 500 milioni di euro. Ecco i risultati del patto del Nazareno, giura il Fatto Quotidiano. Giorgio Meletti a pagina 4: quando c'è Berlusconi in circolazione bisogna essere sempre pronti a mettere la mano alla calcolatrice, ed ecco allora che il patto del Nazareno lo ha arricchito di 500 milioni in pochi giorni. Renzi fa finta di essere quello che ha capito tutto, gli presenta le sue idee meravigliose, Berlusconi fa di sì e la borsa, che ha più intelligenza politica di tutto il Parlamento, assiste alla scena e piazza i suoi colpi. Mediaset sale in 15 giorni del 20%, Mediolanum del 14%, insomma d'Arcore entra mezzo miliardo in due settimane. Questo per il Fatto Quotidiano, gli effetti concreti del patto del Nazareno. Vabbè, se non siete appassionati a questa corsa al Quirinale, retroscena, cosa ci sarà, il governo, il governicchio, il governo del Nazareno, crisi pilotata, non lo so, forse il modo migliore per affrontare allora la corsa al Quirinale è quello dell'intervista a Giancarlo Magalli. Ma sapete che Giancarlo Magalli è diventato la star delle Quirinarie del Fatto Quotidiano? Tutto è nato quasi evidentemente per scherzo. Giancarlo Magalli, nelle Quirinarie del Fatto, che ha lanciato l'idea a chi vorreste presidente, ha iniziato a raccogliere una valanga di voti e non si ferma più. E adesso lui ovviamente ci sguazza, fa un'intervista a Libero e dice: vinco alle Quirinarie, ma il Fatto si vergogna e vuole che mi ritiri. Mi han chiamato quelli del Fatto, dice a Libero Magalli, e con simpatia mi hanno chiesto se per caso non mi fosse andato di ritirarmi. Ma lei ha dei fan irresistibili, perché è tanto amato? Ho un'ironia cattivella che piace ai giovani, anche se faccio un programma per anziani. Cioè, capite che adesso Magalli diventa una star per le Quirinarie. E immaginate perché succederà questo, perché qualcuno lo voterà in Parlamento. Vedrete, alla prima chiama, quando non sarà importante, vedrete che ci sarà Laura Boldrini a dover aprire le schede e dire: Magalli, Magalli, Magalli. E io riderò come un pazzo quando succederà. Magalli. Vabbè, Magalli, parliamo di cose un po' più serie. L'apertura del Sole 24 Ore di tutti i giornali, per la verità, oggi è dedicata al quantitative easing. La BCE, che ha annunciato 1.140 miliardi fino al 2016, si parte con 60 miliardi al mese per l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea per cercare di arginare il rischio deflazione nell'Eurozona. Tutti i dettagli di Alessandro Merli. Io voglio voglio intanto dare qualche articolo, citare qualche articolo magari di, anche qui, di taglio, come si suol dire, di retroscena. Intanto, come scrive Merli, come Super Mario, cioè Mario Draghi, ha aggirato il no tedesco, perché sappiate che dopo che la BCE ha annunciato questo, già la Bild titolava "Cosa succede ora ai nostri soldi" nell'edizione online, e ci sono stati dei deputati che hanno annunciato subito l'illegalità di questo piano e hanno già pronto un ricorso contro il quantitative easing, questo in Germania. Tutti i dettagli appunto Alessandro Merli li spiega sul Sole 24 Ore di cosa si tratta. Mi ha molto colpito anche il fatto che il ministro dell'economia Padoan abbia detto, come raccontano tutti i giornali, ora le famiglie possono iniziare a spendere di più, le imprese che hanno iniziato a mettere a posto i propri bilanci possono ora investire, ma soprattutto, ecco, le famiglie possono iniziare a spendere di più. Questo ha detto il ministro all'economia Padoan. C'è anche un'intervista al ministro dello sviluppo economico Federica Guidi sul quotidiano Repubblica, pagina 7, intervistata da Roberto Mania dice ora spetta agli imprenditori fare la propria parte, cioè tornare a prendersi i rischi del mestiere. La mossa di Draghi, dice Guidi, contribuisce a porre le precondizioni per un cambio di rotta. Ma non è arrivata tardi, chiede Mania. Beh, è difficile per me esprimere un giudizio, non sono un'esperta di politica monetaria, credo però ci si aspettava una risposta forte da parte della BCE e questa è arrivata. Così Federica Guidi su Repubblica, sul QE, si può chiamare così, Mauro Meazza, per non sbagliare, QE, e sono tranquillo, sereno. Buongiorno, buongiorno. Vedo che ti fai un po' di sconto anche tu, sostanzialmente. Quantitative easing. No, ma guarda, fai così. Beh, non è che sono bravo, mi sono esercitato molto e quindi sono riuscito ad avere una certa così scioltezza di pronuncia. Fai così, vai a pagina 12 e 13 oggi sul Sole 24 Ore, c'è una doppia pagina di bussola sul QE, sugli effetti per le famiglie, le imprese e le banche, perché è una misura appunto che ha i suoi riflessi, è attesa per farsi sentire su tutti i versanti. Ad esempio per le famiglie, citavi prima appunto l'invito del ministro di Padoan che dice adesso si può tornare a spendere un po' di più, ad esempio ci attendiamo che i prestiti, i mutui per la casa diventino più convenienti, perché le banche da parte loro dovrebbero avere una maggiore liquidità e quindi dovrebbero avere anche una maggiore facilità nella concessione dei mutui. Ma insomma gli effetti sono abbastanza articolati, li descriviamo appunto in queste due pagine, oltre che nelle precedenti, dove vengono analizzati tutti gli aspetti di questo bazooka, se vuoi puoi dire bazooka, che è più facile, che è QE, magari su QE ti si arrotola un po' la lingua, non so. Comunque, a parte il quantitative easing, che ovviamente è la notizia, oggi giornata decisiva e poi basta, però non lo dico più, per l'IMU agricola. Perché oggi si vedono i ministri, cercano di capire che fare, la scadenza sarebbe il 26 gennaio, però a questo punto sostanzialmente si può anche non pagare, ma spieghiamo tutto nelle pagine di norme e tributi, quindi potete consultare da lì e poi si vedrà insomma come uscire. Noi l'abbiamo detto già ieri, non pagate nel dubbio. Non pagate. Beh, insomma, informatevi, per ora non pagate. Ti volevo segnalare anche una cosuccia che ha trovato Gianni Trovati nella riforma della pubblica amministrazione, con una riduzione, anzi direi un annullamento della responsabilità per i politici rispetto ai dirigenti per il danno erariale, cioè sostanzialmente l'idea sarebbe vabbè, ma non stiamo a guardare il capello se poi, che so, un sindaco, un presidente di provincia decidono qualche cosa che magari potrebbe essere passibile di dare erariale, guardiamo quello che ha fatto il dirigente. La cosa non è simpaticissima, ma ti rinvio all'articolo di Gianni Trovati. E poi avevi per caso dei guar? sai sì. cosa sono? Sì. Ecco. No, è un legume che si coltiva in India, ma è importante perché sta soffrendo per la crisi del petrolio. Piantagioni. Se vuoi capire perché, se vuoi capire perché, leggi Sissi Bellomo oggi nelle pagine di Finanza e Mercati. E con questo, facendoti tanti tanti cari auguri per la tua squadra, per la tua squadra. Per la tua squadra, caro Alessandro, buona domenica ai nostri ascoltatori e soprattutto traffico. Alessandro Milan con la sua sexy voce ti sveglio ogni mattina. Vabbè, a proposito di quantitative easing, c'è la Merkel in Italia, è a Firenze, e sapete che i tedeschi hanno visto con molta critica questa decisione della Banca Centrale Europea, e la Merkel in Italia dice, beh, questo non sia però un alibi per non fare le riforme, batte sempre sullo stesso tasto. Tutti i paesi facciano i compiti a casa, con questo messaggio è arrivata a Firenze Angela Merkel. Oh, ma noi parleremo appunto del rischio infiltrazione tra gli immigrati di potenziali terroristi. Questo è ciò che ha detto Gentiloni. Ieri era il ministro degli esteri a una riunione a Londra con gli altri ministri dell'Europa su questo tema molto molto delicato. Per il manifesto è una vera e propria gaffe di Gentiloni, terroristi con i migranti. Questo è il titolo di pagina 6 del manifesto, parole fuori luogo. Primo, perché fino ad oggi non esistono prove certe che a bordo delle carrette del mare siano arrivati anche soggetti intenzionati a compiere attentati da noi. E poi perché danno fiato alla propaganda razzista della destra. Così la vede il manifesto. In realtà Gentiloni poi si è un po' corretto, proprio perché ha visto che queste parole potevano essere utilizzate, per la verità sono state subito utilizzate dalla Lega, a dire vedete avevamo ragione noi, bisogna fermare Triton, anche Giorgia Meloni a dire sbagliate queste politiche migratorie, e quindi, quindi Gentiloni ha detto confondere l'immigrazione con il terrorismo è un'idiozia. Però in qualche modo, se volete, il dibattito era partito, la frittata era fatta. Racconta tra l'altro Francesco Viviano, e l'articolo più interessante su Repubblica riguardo a questo tema, è che in realtà cellule di Al-Qaeda e dell'ISIS che hanno base in Turchia, Libia ed Egitto sarebbero entrate prepotentemente nella gestione del traffico di esseri umani, scalzando o lavorando in società con gruppi criminali che da anni gestiscono lo spostamento di siriani, palestinesi e altri cittadini dai paesi del centro d'Africa verso Europa. Il nuovo business rilevato da servizi segreti algerini, marocchini, egiziani, tunisini, che hanno girato le informazioni all'intelligence dei paesi europei, compresa l'Italia. Insomma, i servizi segreti nordafricani e europei hanno individuato anche le modalità e le nuove rotte seguite da trafficanti. Soprattutto si parte dalla Turchia e dai paesi del Centro Africa per arrivare ai porti della Libia e poi da qui in Europa. E i servizi segreti avrebbero anche individuato uno dei capi di questa organizzazione, Abdel Rauf Kara, trafficante con forte connotazione jihadista, che da mesi gestirebbe in regime di monopolio il traffico di esseri umani. Oh, questo su Repubblica. Quindi questo forse c'è alla base dell'allarme lanciato da Gentiloni. A proposito di Libia, è ormai... pare ufficiale il fatto che sia scomparso dal 6 gennaio un medico italiano, Ignazio Scaravilli. Ovviamente c'è l'incubo di un nuovo sequestro, non si hanno più notizie di lui da 20 giorni praticamente. Alcuni colleghi hanno denunciato la scomparsa dell'ortopedico catanese di 70 anni e si teme che possa essere stato rapito. A proposito di immigrati, oggi Libero apre così con una notizia che certamente fa polemica. Paghiamo Sky ai clandestini. La vicenda è raccontata da Alessandro Gonzato a pagina 5, riguarda il centro immigrazione di Serravalle gestito da Don Gigetto De Bortoli. Qui gli immigrati si sono lamentati perché non possono vedere la Coppa d'Africa in questo momento in corso, e allora sono stati accontentati e stanno provvedendo a installare la parabola e fare un abbonamento a Sky. Il direttore della struttura Dice comunque ne discutano tra loro e vi assicuro che l'abbonamento lo pagheranno di tasca propria, sia con i 2,50 euro che hanno a disposizione ogni giorno, ma sia con alcuni soldi che si sono portati dal viaggio in casa. Vabbè, comunque Libero ne fa una polemica a dire non dobbiamo, cioè arriviamo anche a pagare Sky. C'è anche, se volete, la storia di Sonia su Repubblica, è un'altra baby jihadista che da Treviso è partita per la Siria per combattere accanto al fidanzato. Giuliano Foschini e Fabio Tonacci raccontano a pagina 19 la storia di questa ragazza che è partita e andata in Siria. Vabbè, c'è tempo per che cosa? Due o tre cose forse. Intanto la questione di Corona è stato accolto, avete visto, basta show, ora spera in Don Mazzi, che per la verità di lui dice non è un criminale ma un pirla. Sta di fatto che Fabrizio Corona ha chiesto di poter scontare il residuo di pena in una o ai domiciliari o in una comunità ed è stato ieri accolto, come scrive il Secolo XIX, pagina 31, da uno stuolo di fan. Vabbè. Vi segnalo invece la lettera di Alice. È una lettera che Alice, vittima di un episodio di bullismo a Vigevano, 14 anni, picchiata da 3 sedicenni la scorsa settimana, Alice scrive al Corriere della Sera, pagina 19, e invita tutti coloro che sono vittime di bullismo di parlarne coi genitori. Sono la 14enne picchiata fuori dalla scuola da 3 sedicenni a Vigevano la scorsa settimana. Inizia così la sua lunga lettera che è pubblicata a pagina 19. Quel giorno mi aspettavano fuori da scuola, una faceva il palo, le altre a turno mi tiravano calci. Una cosa che vorrei dire sul bullismo è che questa gente dimostra solo vigliaccheria nel presentarsi in gruppo. Suggerisco a tutti i bambini, ragazzi che vengono picchiati dai bulli, di raccontare ai genitori quello che succede o comunque di parlare con un adulto di cui si fidano. Io lunedì tornerò a scuola accompagnata da mio papà e camminerò a testa alta e non avrò paura. Questa lettera, importante per tutti coloro che vivono queste problematiche in famiglia, la trovate sul Corriere della Sera. Ma siamo al momento conclusivo. La carta costa è inutile, è innegabile. La carta costa è l'articolo più inutile scovato sui giornali. E oggi lo do anche con una critica al nostro sempre pizzico di autoreferenzialità che abbiamo nella categoria giornalistica, a Mattia Feltri, ancora mezza pagina sulla Stampa per l'addio di Ferrara dal Foglio. Me ne vado senza rimpianti. Ma cambia un direttore di giornali! Cambia un direttore di giornali! Allora? Ma chi se ne frega!